Capitolo ottavo. Il rispetto della verità. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: «Siate veritieri, poiché la verità conduce al bene e il bene conduce in paradiso. L'uomo che mai cesserà di dir la verità finirà per essere annoverato tra i veritieri. Guardatevi dalla menzogna, poiché la menzogna conduce al male e il male conduce all'inferno. L'uomo che mai cesserà di dire menzogne finirà per essere annoverato tra i mentitori». Disse, che Allah lo benedica e la benedica in gloria: «Di la verità anche quando è amara». Disse, che Allah lo benedica e la benedica in gloria: «Quando vedete gli adulatori all'opera, gettate sabbia negli occhi loro». Disse, che Allah lo benedica e la benedica in gloria: «Quando un servo mente, l'angelo si allontana da lui un miglio a causa del cattivo odore che produce». Disse, che Allah lo benedica e la benedica in gloria: «Lasciate ciò che genera in voi il dubbio per ciò che non lo genera. La verità è fonte di pace, mentre la falsità è fonte di dubbio». Disse, che Allah lo benedica e la benedica in gloria: «Il diavolo prende la forma di un uomo qualunque, poi va in mezzo alla gente e racconta falsità. Uno di quelli dice: ho udito un tale, la cui faccia sarei capace di riconoscere, ma il cui nome non so, che ha detto così e così». Disse, che Allah lo benedica e la benedica in gloria: «L'ipocrita è come quella pecora che fa la spola tra un gregge e l'altro, pascolando un po' col primo e un po' col secondo». Disse, che Allah lo benedica e la benedica in gloria: «Se qualcuno dice qualcosa e poi chiede di mantenere il segreto, è come chi ha fatto un deposito fiduciario». Disse, che Allah lo benedica e la benedica in gloria: «I segni distintivi dell'ipocrita sono tre: quando parla, mente; quando promette, non mantiene; e quando gli viene affidata qualcosa in deposito, se ne appropria. Anche se prega, digiuna e dice di essere musulmano, andrà all'inferno». Disse, che Allah lo benedica e la benedica in gloria: «Guai a chi dice falsità, perché la gente rida. Guai a lui». Disse, che Allah lo benedica e la benedica in gloria: «Nel giorno del giudizio un uomo sarà scaraventato nell'inferno. A causa della caduta le budella gli usciranno dalla pancia ed egli girerà attorno ad esse come il somaro che gira alla mola del mulino. Gli inquilini del fuoco si raduneranno attorno a lui e, avendolo riconosciuto, gli chiederanno: o tal dei tali, come mai sei finito qua giù? Non eri tu che ordinavi il bene e proibivi il male? E quel dannato risponderà: certamente, ordinavo il bene, ma io non lo facevo, proibivo il male, ma lo facevo».